Ad alta voce, Iaia Forte legge Nudi e crudi di Alan Bennett. Traduzione di Giulia Arborio Mella e Claudia Valeria Letizia. Nei mesi successivi affiorarono in casa Ransom sporadiche tracce della breve occupazione di Martin e Cleo. Un pacchetto di preservativi vuoto, ficcato sotto il materasso, un fazzoletto rimasto infilato nel divano e, dentro uno dei ninnoli sul camino, un tocco di una sostanza dura color marrone avvolta nella stagnola. Mrs. Ransom provò ad annusarla. Poi si infilò i guanti di gomma e la buttò nel gabinetto, ritenendo che fosse la sua sede naturale, anche se ci vollero varie scariche d'acqua per vincere la sua riluttanza a sparire. Nel frattempo, seduta sul bordo della vasca in attesa che lo sciacquone si riempisse, aveva continuato a domandarsi in che modo fosse arrivata sulla mensola del camino. Forse era uno scherzo, che in ogni caso non venne riferito a Mr. Ransom. Tra le cose che invece spuntavano regolarmente c'erano dei capelli lunghi e biondi, senza dubbio di Martin, e altri più scuri e ricci che Mrs. Ransom attribuì a Cleo. La loro comparsa non risultò equamente suddivisa fra l'armadio suo e quello del marito. Anzi, dal momento che quest'ultimo non se ne lamentava, Mrs. Ransom dedusse che non ne aveva mai trovati. In caso contrario gliel'avrebbe certo fatto sapere. Lei invece li trovava dappertutto, fra i vestiti, i cappotti, la piancheria, capelli sia di lui sia di lei, e non solo capelli ma anche peli, tant'è che seguitò a chiedersi perplessa cosa avessero mai combinato quei due in barba al decoro e ai normali confini fra i sessi. Martin si era messo le sue mutande in testa? In un paio aveva rinvenuto tre capelli. E come mai l'elastico del reggiseno era così lento? Ci aveva scoperto dentro due peli, uno chiaro e l'altro scuro. Malgrado tutto, quando la sera sedeva davanti al marito già munito di cuffia, Mrs. Ransom contemplava con serenità, per non dire con un pizzico di euforia, l'idea di aver spartito la propria biancheria intima con un terzo interessato, o con due. Terzo interessato è inesatto, le avrebbe detto Mr. Ransom, a maggior ragione se sono due. Motivo in più per tacere. Ci fu tuttavia un ulteriore memento del recente passato che marito e moglie furono costretti a condividere, anche se solo per caso. Un sabato sera, dopo cena, Mr. Ransom si apprestava a registrare una recita dal vivo del Serraglio su Radio 3. Riflettendo che il sabato sera non c'era mai niente di interessante alla TV, Mrs. Ransom si era messa a leggere un romanzo che parlava di scialbi adulteri campagnoli. Il marito intanto ultimava i preparativi. Aveva inserito una cassetta che credeva vergine, ma controllando scoprì stupito che iniziava con una gran sghignazzata. Mrs. Ransom alzò lo sguardo. Mr. Ransom seguitò ad ascoltare finché non riuscì a stabilire che a ridere erano in due, un uomo e una donna, e visto che non davano segno di smettere, stava per spegnere quando lei gli disse: «No, Maurice, aspetta, potrebbe essere un indizio!» Perciò ascoltarono in silenzio le risate, che proseguirono quasi ininterrotte per 3 o 4 minuti, e poi cominciarono a smorzarsi, e chi rideva restò senza fiato ad ansimare, finché questo ansimare modulò a poco in un altro verso, il secondo tema come fosse, ovvero un gemito e quindi un grido che segnò l'inizio di un pompaggio ritmico tanto deciso e concentrato quanto l'altro tema era stato lieve e gaio. A un certo punto il microfono parve avvicinarsi e registrò un suono così umido e acquoso da non sembrare neanche umano. «Sembra crema pasticcera che bolle!» disse Mrs. Ransom, pur sapendo che crema non era. Fare la crema difficilmente richiede tanto sforzo, né si usa incitare la crema con gridolini incoraggianti, né i cuochi urlano quando la crema comincia finalmente a bollire. «Non credo proprio che ci vada di sentire questa roba, o sbaglio?» disse Mr. Ransom, sintonizzandosi su Radio 3, nel momento in cui si diffondeva in sala il religioso silenzio che precedeva l'arrivo di Claudio Abbado. Più tardi a letto, Mrs. Ransom disse: «Sarà meglio restituirla quella cassetta, no?» «E perché mai?» ribatté Mr. Ransom. «È mia. Comunque non possiamo, l'ho cancellata. Ci ho registrato sopra.» Era una bugia. Va detto, a onor del vero, che aveva avuto intenzione di cancellarla. Tuttavia temeva che, risentendo il concerto, si sarebbe ricordato cosa c'era sotto, il che avrebbe guastato per sempre qualunque espressione del sublime. Così aveva buttato la cassetta nella pattumiera. Poi però ci aveva ripensato e, mentre Mrs. Ransom si lavava i denti, era tornato in cucina e aveva affondato la mano fra le bucce di patate e le bustine di tè. Dopodiché, tolto un pezzetto di pomodoro che era rimasto attaccato, aveva infilato la cassetta nella libreria dietro l'illecito in maniera di salmone, nascondiglio, in cui teneva anche una scorta segreta di fotografie raffiguranti alcuni atti sessuali, retaggio di un macchinoso caso di divorzio di cui si era occupato qualche anno prima. La libreria, ovvio, era finita a Aylesbury insieme a tutto il resto, ma era anche tornata indietro intatta, senza che Martin, a quanto pareva, avesse individuato il nascondiglio. Invece Martin l'aveva individuato, e come, ed erano state proprio le fotografie la causa scatenante delle risate di Martin e Cleo. Dunque, nessun segreto per Martin e nessun segreto neanche per Mrs. Ransom, la quale un pomeriggio, mentre guardava pigramente la libreria chiedendosi cosa cucinare per cena, aveva notato il titolo «L'illecito in materia di salmone» e vi aveva ravvisato qualcosa di vagamente culinario. Dopo aveva rimesso a posto le fotografie, ma ogni 2 o 3 mesi andava a controllare che ci fossero ancora, e trovandole si sentiva in qualche modo rassicurata. Adesso, quando Mr. Ransom sedeva in poltrona ad ascoltare in cuffia il flauto magico, certi giorni tutto ascoltava meno che Mozart. Mentre fissava assorto la moglie che leggeva, le sue orecchie erano piene di Martin e Cleo che gemevano, gridavano, si sfiancavano l'un l'altra, 1, 2, 3 volte all'infinito. Per quanto lo mettesse, quel nastro non finiva mai di sbalordirlo. Che 2 esseri umani potessero darsi così completamente senza riserve l'uno all'altra, al momento presente andava oltre le sue capacità di comprensioni. Gli sembrava un miracolo. A furia di ascoltare il nastro, Mr. Ransom lo imparò a memoria proprio come un brano di Mozart. Finì per riconoscere nella lunga ispirazione di Martin la conclusione di un misterioso passaggio. In quel momento Cleo stava a 4 zampe, Martin dietro di lei. Allorché il languido andante, miagoli sommessi della ragazza, si trasformava in un battente allegro assai, grida rauche di entrambi, il quale a sua volta cedeva il posto a una coda ancor più frenetica e a un improvviso rallentando. «No, no, aspetta!» esclamava lei, e poi «Sì, sì, sì!» seguito da ansiti sospiri, silenzio e finalmente dal sonno. Benché non avesse una gran fantasia, Mr. Ransom si sorprese a pensare che, volendo redigere un catalogo di nastri del genere, si sarebbe potuto assegnare a ciascuno l'equivalente erotico dei numeri di Köchel e perfino individuare lo sviluppo di uno stile del rapporto sessuale contraddistinto da un periodo iniziale, uno centrale, uno tardo, adattando a quei ritmi nuovi e martellanti l'intero apparato della musicologia mozartiana. Tali erano i pensieri di Mr. Ransom mentre sedeva davanti alla moglie che stava riprovando per l'ennesima volta a leggere Barbara Pym. Mrs. Ransom sapeva che il marito non ascoltava Mozart, anche se non c'erano indizi chiari e senz'altro nulla di volgare, come un rigonfiamento nei pantaloni. No, c'era solo l'espressione tesa del suo viso, l'esatto opposto di quella che aveva quando ascoltava il suo compositore preferito. Un'attenzione intensa, pronta a cogliere ogni dettaglio finora sfuggito. Anche Mrs. Ransom ogni tanto sentiva il nastro. Lei però, non potendo valersi della copertura fornita da Mozart, limitava le sue esperienze d'ascolto al pomeriggio. Prendeva la scaletta pieghevole e, tirato giù l'illecito in materia di salmone, allungava la mano alla ricerca della cassetta. Le foto le sembravano idiote e ridicole, come erano sembrate a Martin e Cleo. Poi, dopo essersi versata un bicchierino di sherry, si metteva comoda ad ascoltare i due che facevano l'amore, continuando a meravigliarsi, dopo almeno una decina di sedute, della lunghezza e pertinacia dell'atto e del suo epilogo violento e indecoroso. Alla fine andava a sdraiarsi sul letto, riflettendo che era lo stesso letto sul quale si era svolto tutto e ripensando a come tutto si era svolto. Se si eccettuano queste furtive illuminazioni, dopo che i Ransom ebbero recuperato i loro averi, la vita andò avanti più o meno come prima. Certe volte, però, quando si riposava sul letto o prima di alzarsi la mattina, Mrs. Ransom si sentiva pervadere dalla deprimente sensazione di aver perso il tram. Anche se era difficile dire quale tram fosse o dove andasse. Prima del viaggio a Aylesbury si era convinta che il furto fosse un'occasione da sfruttare. Ogni giornata portava con sé una messe di piccole avventure. Una visita da Dusty, un salto da Mr. Howard, una passeggiata ad Edgware Road. Ora invece, reinsediata tra i suoi possedimenti, Mrs. Ransom temette che per lei le distrazioni fossero arrivate al capolinea. La vita era rientrata nella normalità. Solo che così non le piaceva più. Particolarmente monotoni e pieni di rimpianto erano i pomeriggi. Vero è che continuava a guardare la televisione senza più sorprendersi come una volta delle cose che arrivava a fare la gente, anzi, provando persino, come nel caso di Martin e Cleo, un pizzico di invidia. Si abituò talmente al lessico televisivo che di tanto in tanto le sfuggiva un modo di dire rivelatore. Per esempio, quando una volta disse che dagli altri si sarebbe aspettata più empatia. Empatia? Ripeté Mr. Ransom. E da quando in qua usi termini di questo genere? Perché non è esatto? Domandò lei con aria innocente. Non volevo dire questo. Mrs. Ransom pensò che avevano vissuti troppo diversi e che era venuto per lei il momento di cercare aiuto nella terapia. La scelta facoltativa di un tempo era diventata una necessità, sicché provò a rintracciare Dusty tramite il numero verde. «Mrs. Fine è momentaneamente assente», disse una voce registrata, interrotta subito da una presenza reale. «Pronto, sono Mandy, posso esserle utile?» Mrs. Ransom spiegò che doveva sviscerare con qualcuno il ritorno improvviso del suo mobilio. «Vorrei arrivare a una consapevolezza più profonda», aggiunse e cercò di spiegare. Mandy era dubbiosa. «Potrebbe rientrare nella sindrome da stress post-traumatico», disse. «Solo che non ci farei troppo assegnamento. Siamo quasi alla fine dell'anno finanziario e c'è un giro di vite. Comunque, quella sindrome lì va bene per stupro, omicidio e simili, mentre c'è stata gente che ci ha telefonato perché ha passato un brutto quarto d'ora dal dentista. Non è che le sembrano sporchi i mobili, eh?» No, rispose Mrs. Ransom. In ogni caso abbiamo fatto pulire tutto. Beh, se ha tenuto le ricevute potrei fare una telefonata in sede per vedere se è previsto un rimborso. Non si preoccupi, disse Mrs. Ransom. È un'esperienza che mi servirà per crescere. Beh, prima o poi ci tocca a tutti, no? Disse Mandy. Che cosa? Domandò Mrs. Ransom. Crescere, bella mia. In fin dei conti l'importante è quello. Del resto, da come me l'ha descritto, aggiunse Mandy, il suo mi sembra un furto molto affettivo. Mandy aveva ragione. Anzi, il vero problema era proprio quello. Fosse stato un furto dei soliti, riprendersi sarebbe stato più facile. Una asportazione drastica era un fatto che Mrs. Ransom sarebbe riuscita ad accettare, a guardare in maniera positiva, addirittura ad apprezzare. Ma la scomparsa in blocco, abbinata alla meticolosa ricostruzione e alla restituzione, la tormentava. Chi poteva aver voluto derubarli fino a quel punto per poi decidere di riparare in maniera così impeccabile? Si sentiva come derubata due volte, la prima dei suoi averi, la seconda della possibilità di superarne la perdita. Non era giusto e non aveva senso. Forse, pensò, era questo che si intendeva per sentirsi destabilizzati. Succedeva di rado che qualcuno scrivesse Ransom. Ogni tanto arrivava una cartolina dal Canada, dove lui aveva dei parenti per parte di madre che mantenevano diligentemente i rapporti, alla quale lei rispondeva con una cartolina altrettanto insipida. Lo scambio di saluti non andava molto più in là di un «Ciao, noi ci siamo ancora» e un «Ah, bene, anche noi». In genere, però, la posta consisteva di bollette e estratti conto, e Mrs. Ransom non si dava quasi mai la pena di esaminarla dopo averla ritirata dalla cassetta dell'atrio, preferendo lasciarla intatta sulla console perché se ne occupasse suo marito prima di cena. Quella mattina aveva appena completato il rituale quando notò che la lettera in cima alla pila veniva dal Sud America e non era indirizzata a Mr. Ransom, bensì a un certo Mr. Anson. La cosa era già successa e Mr. Ransom aveva ficcato la lettera nella cassetta del guardiano insieme a un biglietto in cui chiedeva a lui o al postino di fare più attenzione. Meno disposta di un tempo a tollerare la pedanteria del marito e non volendo che la storia si ripetesse, Mrs. Ransom mise la lettera da parte. Dopo pranzo sarebbe salita all'ottavo piano e l'avrebbe infilata sotto la porta di Mr. Ransom. Almeno avrebbe fatto una passeggiata. Non saliva all'ultimo piano da anni. Sapeva che erano stati fatti dei lavori perché Mr. Ransom aveva dovuto scrivere una lettera di protesta ai padroni di casa per il baccano che facevano gli operai e la sporcizia che lasciavano in ascensore. Ma con l'andirvieni di inquilini c'era sempre stato qualcuno che ristrutturava e Mrs. Ransom aveva finito per considerarlo un fatto della vita. Eppure, non appena le porte dell'ascensore si aprirono, lo spazio arioso che si trovò di fronte la lasciò sorpresa. Si sarebbe quasi detto un palazzo moderno, tanto il pianerottolo era ampio, luminoso e privo di ombre. A differenza del mogano scuro e rovinato che avevano loro, il legno dei pannelli era stato schiarito e mentre giù la guida arancione era tutta macchiata e butterata, qui c'era una folta moquette azzurro fumo che lambiva le pareti e attutiva ogni rumore. Sul soffitto vide un alto lucernario ottagonale e sotto, simmetrico, un divano ottagonale. Sembrava quasi un albergo o uno di quegli ospedali nuovi. E non era cambiato solo l'arredamento. Mrs. Ransom ricordava varie porte, ma ora pareva esserci un unico appartamento. Per sicurezza cercò il nome sulla porta superstite, ma non trovò né quello né una buca delle lettere. Allora si chinò per infilare la lettera sotto la porta, ma la moquette era così folta che non ci riuscì. In alto, non vista, una telecamera che lei aveva preso per un faretto fece una serie di scatti silenziosi, come un rettile impacciato, finché non l'ebbe inquadrata. Mentre lei tentava di appiattire il pelo della moquette, si udì un debole ronzio e la porta, senza rumore, si aprì. «Prego», disse una voce disincarnata. E Mrs. Ransom, esibendo la lettera come un invito, entrò. Nell'ingresso non c'era nessuno e lei aspettò incerta, sorridendo con aria premurosa nell'eventualità che qualcuno la stesse guardando. L'ingresso era identico a loro, ma grande il doppio e decorato come l'atrio, con lo stesso legno chiaro e le pareti puntinate. «Avranno buttato giù un muro e accorpato l'appartamento vicino», pensò Mrs. Ransom, «o forse tutti gli appartamenti del piano». «Ho portato una lettera!» disse a voce alta, più che se ci fosse stato qualcuno. «È arrivata a me per sbaglio!» Silenzio. «Credo che venga dal Sud America, dal Perù, sempre che il nome sia Anson. Ad ogni modo la metto qui e me ne vado», disse per disperazione. Stava per posare la lettera su un cubo di perspex che le sembrava un tavolo, quando alle sue spalle sentì una specie di rantolo sommesso e, girandosi, vide che la porta si era richiusa. Ma intanto, con un sospiro, la porta davanti si era aperta e Mrs. Ransom vide sul fondo, nel vano di un'altra porta, un giovanotto appeso a una sbarra.